cocky. You can meet like your chicks bounce like Dolly. Cause I long for a night at pillow talk time. You call my phone sobbing and sounding all sorry. You were so silly acting all gobby. Cause I just ain't another girl like E. Plus you ain't worth another girl like me. I can do way better than you, risk your glory. Flash, now I'm pulling the chains. So it's flash, out my veins, out the drain. Flash, and I no more see. You left skid marks, but the scars don't last. Flash, time to be me again. Flash, each bubble, meet my friends. Flash, sorry love, what was that, what I heard was nah, yeah. Are you being too nice, too nice, too nice? You can't afford to be scorched. I think you've been smoking way too much bush. Are you being too nice, too nice, too nice? And you're talking way too much. Before you get hit with, I suggest you just flush. Questa puntata si avvale della super mega galattica co-conduzione di Massimiliano W. Briarava. I don't care how you think I should behave. I can't believe that I changed. You had me whipped and chained, but no more. Shut up and listen, I'm gonna flush you out my system. Flush, now I'm pulling the chains. So it's flush, out my veins, out the drain. Flush, and I can't no more see. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each mother, meet my friends. Flush, sorry love, what was that, what I heard was Are you being too nice, too nice, too nice? You can't afford to be scorched. I think you've been smoking way too much bookers. Are you being too nice, too nice, too nice? And you're talking way too much. So before you get hit with, I suggest you just flush. Perché W? Come perché? Non lo sai? No, non lo so, se te lo chiedo. Ma forse abbiamo il W in persona che te lo può dire. Perché W? No, io non ci sono. Non no, ci sei, non lo devo dici? Devo pulire i pennelli, aspetta, aspetta. Comunque il foglio. Sto Allora, praticamente questa voce che pulisce i pennelli è il W originale. Il una W. Una voce che pulisce i pennelli. Questa qua, te la senti? Sì, la sento, aspetta la sento. Aspetta che prendo. Prendo il taglierino. Siamo in tanti stasera, Siamo in tanti. Chi? Now I'm pulling the chains, so it's flush, out my veins, out the drain. Flush, and I can no more see. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each one will meet my friends. Flush, sorry love, what was that, what I heard was Are you feeling too nice, too nice, too nice? You can't afford to be scorched. I think you've been smoking way too much torture. Are you feeling too nice, too nice, too nice? And you're talking way too much. But before you get hit, ed eccoci alla 120esima puntata di Coxo Spaziale, tornati in diretta dagli studi di Radio Città Fujiko in collegamento telefonico. Hai capito, Pasc? In collegamento telefonico col W Pasc. W Pasquini. Sto usando il taglierino. Guarda, ti do questo e questo, così ne fai un altro con tuo fratello, e questo quando hai finito di giocarci. Dai, Nicolò che lo riporta. Che glielo riporta. Scusa Pasc, ma a noi non ci dai niente? A voi vi do la mia voce che dice queste cose, no? Meravigliosa. E invece senti che come voce stai, che ti ho portato. Non ci vediamo da un miliardo di anni. Troppo tempo. Infatti arriva Natale, forse tornerai a trovarci. Intanto per tutto dicembre io ho qui questa voce qua. Sentila un po'. Eccomi, sono qua. Io sono qua in presenza. Ormai Pasquini è una voce dall'alto, un grande fratello. Ma tu invece sei una voce amica, mi sembra di riconoscerti. Sì, vabbè, mi sono anche presentato prima, non so dove eri tu, a quale pennello stavi pulendo. Però... Era quello sottile. Ah, quello sottile, esatto. Stavo pulendo quello. Ma grosso. Per una parete grande ci vuole un pennello grande? Assolutamente. Okay. È filosofia allo stato puro. Per una parete grande ci vuole un pennello grande. Bene, bene. Mentre invece il vigile urbano dice no, non è vero, ci vuole un grande pennello. In realtà no, perché poi, come tutti sappiamo, i vigili urbani non hanno mai ragione. Comunque io uso il rullo di solito piuttosto che il pennello per una parete grande. Ottimo. Mi sembra un'ottima idea. Beh, detto questo, vuoi provare un po' a intervistare il nostro nuovissimo super mega co-conduttore del mese di dicembre, che si chiama Massimiliano in veste W Briarava e che ci accompagnerà con questa sua splendida voce per tutto il mese? No, effettivamente trovi sempre della gente che ha delle voci più belle della mia, e alla fine io non torno più, cosa torno a fare? Scusa. Ma no, torni con i tuoi cioè il tuo frizzo, lazzo e tutto. Sono i contenuti che contano. Le mie zeppole, soprattutto i miei contenuti, esatto. Sì, ci manca tantissimo Google Translate, Pasqua, te non hai idea. ma Google Translate ce l'hanno anche gli altri, non è che ce l'ho solo io. Va bene, allora vedremo di... Tu ce l'hai il Google Translate? Io no, mi basta l'inglese, no? Va bene, va bene. In che lingua vogliamo tradurre? Aramaico. Dai, Pasqua, chiedi qualche cosa al nostro nuovo co-conduttore. Chiedigli perché è qui. Tu lo sai cosa significa la elevator line? Ovvero, in questo momento mi sfugge, lo sapevo fino a 2 minuti fa. Sarebbe la frase che tu dici nell'ascensore per descrivere te stesso, cioè ovvero è in una frase tu descrivi te stesso, per cui quello io ti chiedo a chi? Chiedi quale sarebbe la mia frase nell'ascensore. Esatto. Ok, la tua elevator line. È andata, ciao. La mia elevator line è: sono in salita. Perfetto. Sei in salita. Sono in salita. Lei non vede l'ora di andare a casa a continuare a fare. Scusate, devo salutare anche Nicolò. Ciao, mi Nicolò. Sembra giusto. A presto. Ciao Pasquini. Ciao. A presto. Nicolò. Come? No, ho finito. Adesso sono tutto vostro. Come? Adesso che ti stiamo salutando, sei non... Ma no, io salutavo Nicolò, non salutavo voi. No, va bene, posso andare, vado a cucinare allora. Coxo Pasquini. Questo te lo ricordavi? Wow, no, non è per niente. Ma chi l'aveva fatto questo? Bellissimo. Tu e la tua famiglia. E allora, buon appetito. Grazie. Cosa si cucina mentre noi lavoriamo? Ma secondo me tipo del riso con le verdure. Ottimo. Tutti vegetariani in casa Pasquini, bravi. Da male. Ciao. Ciao. Ciao. Nascondi la fantasia. È una vita di fatica e polvere. Nella stessa valigia di 20 anni fa, che ride di te. Stai andando via, ma in frantumi un po' da cenere. Niente più figli da crescere. Sono Andrea De Carlo e sto ascoltando Coxo Spaziale. Se ci fossero grazie Andrea De Carlo, perché effettivamente sì, siamo qui alla 120esima puntata di Coxo Spaziale, ritornati finalmente in diretta dopo le latitanze delle scorse settimane. Si è concluso il primo mese di co-conduzione insieme alla mitica Roberta, che è stata W, adesso ritornata solo Giallo, e che fra l'altro risentiremo stasera perché comunque si sta preparando per un concerto. E sono qui con il secondo co-conduttore super mega galattico anche questa volta, che si chiama Massimiliano W. Briarava. Grandioso. Buonasera a tutti. Eccolo qui, ritornato dopo il confronto pasquinico con il bel caos pasquinico sentito in maniera... Sì, il caos di Pasquini mi ha ricordato il caos da cui stavo arrivando proprio per correndo in bicicletta da una parte all'altra della città per arrivare qua in radio. Perché sono stato a trovare oggi il mio partigiano. Il mio partigiano Grazia, si chiama così Grazia, il partigiano mio. Come il tuo? Giancarlo Grazia. Cosa vuol dire il tuo partigiano? Il mio partigiano è il signore che oggi compiva 88 anni, con il quale ho fatto delle lunghe chiacchierate, dei meravigliosi caffè, nel tentativo di capire che cos'era la Seconda Guerra Mondiale, cos'è stata la guerra di resistenza e la guerra di liberazione. 88 anni adesso, vuol dire oggi. Che all'epoca lui era molto giovane. Aveva 17 anni. Esatto. Perché la storia, secondo me, l'hanno fatta i giovani uomini, cioè che erano uomini allora, ma all'epoca da noi sono ancora poppanti. È abbastanza così. Sì, diciamo che era uno stato delle cose in cui non c'era molta possibilità di scelta, si doveva fare quello che si doveva fare. E comunque il mio Grazia l'ho incontrato oggi per portargli il DVD dello spettacolo che abbiamo fatto utilizzando la sua voce, proprio uno spettacolo dedicato alla guerra di resistenza o alla guerra in generale, a questa brutta cosa che spesso succede e che purtroppo sta succedendo anche adesso. Mi domando per inciso quando mai non ne succedono di guerre in sto bel grande mondo rotondo, però a parte questo, ma che spettacolo è? Si chiama C'è bisogno di fare un esempio, è uno spettacolo che abbiamo preparato per la festa della liberazione dello scorso anno e che oggi stiamo un po', in questo periodo stiamo riguardando. Io faccio regista, ecco, se non si era capito. Infatti stavo per andare un pochino poi, esatto. Che da qui desumiamo gli ambiti di pertinenza. E abbiamo lavorato su questi materiali legati alle parole chiave della guerra: violenza, distanza, obbedienza, odio e potere. E abbiamo preparato questo materiale spettacolare per i ragazzi di 10-15 anni. Ed è una bella sfida effettivamente parlare di temi così pesanti con ragazzi giovani. E oggi è doppiamente una sfida, perché parlare di memoria in un momento in cui la guerra si fa sempre più presente ci ha richiesto un fortissimo ripensamento, e dunque stiamo pensando. La visita di oggi al partigiano Grazia mi è servita un po' per rimettermi a bolla, come si dice, con i miei pensieri rispetto a come comportarci adesso, a come portare una parola in un momento come questo, che sì, tu dici giustamente che le guerre ci sono sempre state, però in questo momento diciamo che la sentiamo un po' di più. Quasi ci è venuto un pochino a trovare a casa, al domicilio. Esatto. Ed è una condizione strana, molto rara, inusuale, diciamo, che tutto sommato però, insomma, no. Ce l'ha messo un bel po', però si tratta di prendere coscienza. Ora non voglio rattristare una bellissima puntata che ci aspetta, ecco. Si tratta però di essere un po' consapevoli, sicuramente adesso che ci è venuta a bussare alla porta di casa è ovvio che, consapevoli o no, la stiamo affrontando. E allora la 120esima puntata di Coxo Spaziale introduce il co-conduttore del mese di dicembre, che si chiama Massimiliano Briarava, l'altro cognome no, anche se io ormai ce l'ho nel cervello così trapanato, perché non c'è solo il W, c'è ancora un altro cognome, poi ancora un altro cognome, c'è tutta la storia dei cognomi, e siccome abbiamo 4-5 incontri potremmo anche dedicare una puntata a tutti i miei cognomi. Accolgo l'invito, è possibile, perché sai, nelle puntate di Natale si va alla sperimentazione più brada e anche un po' bradipa a volte. E invece possiamo cominciare a dire che sì, c'entra il teatro. infatti Massimiliano è già venuto a trovarci in altre occasioni nel corso di questi 3 anni di trasmissione, e adesso invece ce lo approfondiamo per Benvenino. Quindi attore, regista, anche drammaturgo. Anche drammaturgo. C'entra una resistenza teatrale, visto che prima parlavamo di partigiani più che un teatro in sé per sé. Mm. C'entra un po' di resistenza perché è un periodaccio, diciamocelo. Ricercatore universitario. Ma magari, sì, insomma. Ma lo sei stato? Sono stato un sacco di cose. Al momento sono disoccupato, per cui... cui vieni qui da noi al Coxo, per cui pedalo nella nebbia fino al Coxo. E nel corso di queste puntate qualche piccola anticipazione dei temi che attraverseremo? Credo temi che attraverseremo, ma faremo una piccola autobiografia, no? O sbaglio? Questo è quello a cui è dedicata la puntata di oggi, ma poi ce ne sono altre 3. Ok, dunque ce ne vogliono di puntate per raccontare tutta quanta questa autobiografia. Comunque va bene, cercheremo di stare stretti. Io vorrei avere un po' di, insomma, ospiti, se tu me lo concedi. Sì, sì, tutti gli ospiti dei co-conduttori sono benvenuti. E dunque mi piacerebbe proprio questa resistenza di cui stavo parlando, declinarla su diversi ambiti nei quali mi sono imbattuto in questi anni. Per esempio il lavoro con un coro maschile, un coro gay che si chiama Comos e che sarà, spero, ospite tra qualche settimana. Riusciremo a portarli qua. Intanto però qualche voce dal coro la sentiamo, perché comunque c'è un evento che dobbiamo menzionare più avanti. Sì, stasera avremo anche una telefonatina con gli amici del Comos, e poi mi piacerebbe portarvi qua altri resistenti, altri che con me fanno questo duro lavoro di cercare di vivere di teatro e di portare la cultura di restituire alla cultura il valore che ha, cioè di insegnarci i sentimenti, di mantenere alta la coscienza. E siamo in tanti, ne ho incontrati parecchi durante i miei lavori teatrali, nel tentativo di costruire una compagnia, per cui forse vi porterò un po' di loro. Ecco, ognuno di loro vedrete che arriva anche lui dalla sua strada piuttosto accidentata. E mi piacerebbe proprio parlare di queste resistenze, se potessi in questo mese. Bene. Discutere, trovare un filo conduttore tra tutti i nostri interventi. E io mi sa che te lo sottoscrivo. Grazie. Poi ovviamente nel caso anch'io ti porterò qualche ospite e tu lo vaglierai, perché Massimiliano, sei co-conduttore. Sì, io non so, io bottoni, basta che li schiacci tu i bottoni, perché io non sì, so. Sì, tu mi porti il contenuto. Ok, perfetto. E adesso ad esempio mi hai portato un altro contenuto, che è un brano. Sì, quale mettiamo? La Janis? E direi di sì, dai. Ah, ok. Dopo magari ti spiego perché. Da bravissimo co-conduttore propone brani e c'è pure e ve li spiega e vi fa anche la parafrasi. Allora sentiamo giustamente su questi applausi. Grazie Bria Rava, tipo. Sono commosso. Si tratta di un brano che misteriosamente il mio buon maestro di teatro Arnaldo Picchi, di cui abbiamo già parlato perché qualche settimana fa sono stato tuo ospite per parlarti del glossario di regia di Picchi. Picchi è scomparso nel 2006, io sto editando i suoi testi. Cavoli, inediti. Già 10 anni sono passati, mi sembra ieri. Esatto, sì, perché dovete sapere che Fedra e io siamo tutti quanti figli dello stesso padre, cioè appunto di Picchi. Veniamo tutti dal suo laboratorio. Sì, però tu eri più figlio degli altri. Va bene, figlio prediletto. e dunque, quando lavorammo sulla Rivoluzione Francese, Picchi decise di concludere la prima parte del lavoro, quello che si concludeva con Robespierre e Desmoulins, due rivoluzionari. Robespierre lo conoscono tutti, ma magari Desmoulins non tutti, che discutono di che nel momento in cui il re deve abdicare, sono in una stanza attigua, guardano le Tuileries, che sono il parco dove davanti al Louvre attualmente, le foglie d'autunno, e parlano di cosa succederà da oggi in poi, e dunque preconizzano, vedono nel loro futuro la Rivoluzione Francese e il terrore. Per commentare questo passaggio del testo e questo passaggio dello spettacolo, Picchi decise di utilizzare Janis Joplin. Tomò, capito? E adesso io vorrei risvegliarlo dal suo sonno per chiedergli come mai. Ma di certo era un effetto meraviglioso e funzionava perfettamente, dava un senso di malinconia e di anacronismo, cioè univa il tempo passato con il tempo presente, con una forma di struggimento che funzionava perfettamente, ma il segreto di questa scelta mi è ancora oscuro. E chi lo sa, magari leggendo tra le righe dei testi che fortunatamente sono stati pubblicati e in via di pubblicazione qualcosa... Resta il fatto che insomma Janis Joplin è sempre da ascoltare. E anche Riccardo Lolli. Viva! Coxo Sacrale. I 2 minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked to the moon, turn to gold, blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Già finito? Già finito? Io sono Danilo De Summa e... Sto ascoltando? Coxo Spaziale. Coxo risponde. Cosa risponderà? Pronto? Adesso sì, sono andata via un attimo. Sentivo da lontano, da lontanissimo. E adesso mi senti più vicina? Ti sento vicina anch'io. Roberta Giallo, senza più la W, come stai? Bene, bene, sono ancora io, Fedra, vedi, non riesco a mancare al coxo, in qualche modo rientro. Bene, grazie, sto per... andare insomma a uno spettacolo che infatti ce l'abbiamo. Se, infatti io ti ho chiamato qui per tre motivi: sapere come stavi senza W, se ti eri ripresa, presentarti il nuovo co-conduttore e aiutare insieme il co-conduttore a introdurlo nel mondo della menzione, che sai, poverino, non l'ha mai fatto prima. Ti prego, aiutami, Roberta. Eccolo qui, lo conosci? Riconosci questa voce? È una voce sì familiare, però non so se è la sua o di un altro che ce l'ha familiare alla sua. Parla, no? Parla, vediamo. Siamo tutti una grande famiglia. La R moscia un po' sento, può essere? Sì, ma non si chiama moscia, si chiama uvulare. Uvulare. Ecco, il nostro co-conduttore c'ha la R uvulare. Danilo Mazzotti. No. Ma per favore. No, lui è drammaturgo, regista, attore. Allora, non voglio, ma non è mica detto che ci conosciamo, ma ci dovremmo conoscere. Cioè, possiamo abbiamo ancora tempo per conoscerci. Dai. Allora lasciamo nel mistero. Possiamo anche scegliere di non sapere. No, tu il mio nome lo sai, io posso scegliere di non sapere il tuo, giusto? Ultimo tango a Santa Rita. Lo scoprirò quando riascolterò la puntata. O se no, quando faremo la pizzata dei co-conduttori. Anche. Che sarà il contenuto di uno coxo speciale. Quando succederà questo? Io ho capito che non posso indovinare, ecco, ho capito questo. Quindi o me lo dite o comunque, Roberta, piacere, sono Massimiliano. Piacere, Roberta. Piacere. Ciao Massimiliano. Ciao. W Briarava. Ti ho rubato il W, se non ti spiace. No, l'hai rubato a Pasquale. Sono contenta, guarda, sono contenta di ritornare alle origini, insomma, senza il nome. Però, insomma, non è male, insomma, è un nome che americanizza un pochino. Sì, no, è un momento importante. Avere a un certo punto ognuno dovrebbe avere un W tra il nome e il cognome. Vero, vero. Così come a metà di ogni coxo si sa bene che cosa c'è, vero Roberta? Cosa c'è adesso? Perché non essendo coxo mi trovo dispersa. Vi aiuto io. Vi aiuto io, ascoltate. L'angolo della menzione. Ah no? Hai capito. Io menziono me stessa allora a questo punto. Cosa devo? Vuoi che ti menzioni io o vai tu? No, se c'è tutto scritto bene, menzionami tu. Io ce l'ho scritto insomma benino, nel senso, allora, leggo e poi mi aggiungi, va bene? Va bene, va bene. Quindi, menzione. Adesso, giovedì 13 alle ore 21, Roberto Roversi, una voce R/ esistenziale, resistenziale. Comunque è giovedì 3 oggi. Giovedì 3, infatti. L'avevo scritto giusto, sono io che non so più leggere. C'è un altro spettacolo dove sono presente, allora forse magari chissà chi ha sbagliato. Fai troppi spettacoli. Non sta mai ferma, guardala. All'oratorio di San Filippo Neri, una sezione sì. tra canzoni, una selezione tra le canzoni di Roversi che no, falla tu. Una selezione tra le canzoni che Roversi ha scritto permetterà di ascoltare brani poco conosciuti al grande pubblico, brani che però hanno influenzato come pochi altri la canzone d'autore in Italia, per poi finire con l'esecuzione del suo brano più famoso, Chiedi chi erano i Beatles. Abbiamo detto bene, Roberta? Avete letto benissimo, io non lo stavo leggendo, ma insomma mi sembra che abbiate letto quello che avevo già letto, quindi perfetto. Cosa aggiungere? Non un po' di nomi? Sì, un po' di nomi dei ragazzi che canteranno come me. Allora, canterò io, canterà Simona Severini, Francesco Milanesi, Irene Catani, Paolo Piermattei, che è anche insomma uno degli ideatori del progetto. E basta, i cantanti sono questi. Poi c'è una danzatrice che si chiama Angelica Fassanò, se non sbaglio, il cognome me lo sbaglio anch'io. Frisanò, Fassanò? C'è scritto? No, non ce l'ho scritto, però so che da domani, a posteriori a questo punto, o andate subito lì e comunque prendete una brochure, ci saranno sicuramente tutti i nomi, se no da domani, se le brochure fossero andate a Roma, www.coxospaziale.blogspot.com con tutti i link di riferimento. Certo, io poi non posso non invitare, anche se è tardi, insomma, ma no, non ancora possono farceli i bolognesi, posso invitarli a raggiungersi insomma alle 9 al Filippo Neri, tanto è una traversa di Via Indipendenza. Ed è un bellissimo teatro. Oh, ma infatti meraviglioso, io era da un po' di tempo che non andavo, oggi ho apprezzato veramente il progetto architettonico di recupero, perché credo fosse stato bombardato. Esatto. Quindi c'è questo, chiamiamolo soffitto, queste volte insomma in cui si intravede del legno sostitutivo dei materiali originari mischiato con invece e bravo oratorio di San Filippo Neri. Eh sì, la fondazione del Monte, bravi. Hanno anche appena fatto il Festival 2030, che è stato un bellissimo successo, gratuito, aperto al pubblico, completamente finanziato dalla fondazione. Con anche questo di stasera è gratis, infatti. Fantastico. Comunque, un altro colpo di piatti. Comunque, mi piace che io prima mi sono messo a parlare del mio partigiano, il partigiano Grazia, che è un mio vecchio amico che oggi compie 88 anni. Tanti auguri, Grazia. Auguri, Grazia. Auguri. E sono andato a trovarlo, c'era un via vai di signore, signorine, tutte donne. Il partigiano si è fatto suo e Roberto Roversi, una voce resistenziale, insomma la resistenza rimane nel nostro cuore, mi fa molto piacere. Certo, no, sì, infatti ci sono questi collegamenti poi casuali, insomma la casualità che unisce. Esatto, cioè non, la casualità non è mai casuale. Esatto, sì, questa città ce lo insegna. E comunque insomma sento che il co-conduttore insomma veramente è una favella, insomma molto presente questo co-conduttore. Dici troppo? No, assolutamente. Okay. Anzi, cioè, hai anche un adesso come non trovo le parole adatte, hai un ritmo anche. Alzi, come dire, il peso del programma. Si infila bene, si infila bene. Okay. Non che lo appesantisci, lo approfondisci, ecco. Così fantastico. Come invece il ritmo di questa puntata sarà di nuovo come posso dire? Come possiamo dire? dillo e l'avremo Fuliggine, detto. Fuliggine, giallo Pier Mattei. Wow, ok. Bello, l'ho detto e adesso l'ascoltiamo. Ciao Roberta, tanta merda, ci vediamo più tardi. Ciao Roberta, grazie. Ciao. E ti fanno i complimenti e ti danno consigli finti. C'è chi spera che ti sbagli. Uè, tanto prima o poi ti spogli. Intelligente ma non troppo, e la scemenza che fa colpo. Ci serve un pezzo bello fresco, non puoi essere depresso. Fuliggine, questo è solo fuliggine. Fuliggine, resta solo fuliggine. Datti una motivazione per la tua emancipazione. Fatti fare un tatuaggio. Scarrafone o scarrafaggio. Metti pure il parrucchino, ci vuole un look più sbarazzino, delicato ma non troppo. fegato né finocchio. Occhio. Fuliggine, questa è solo fuliggine. Ah, fuliggine, resta solo fuliggine. Ah, hai bisogno di una mano, perché tu non sei nessuno. Io so quello che ci vuole, io maneggio le pistole. Bang, bang, bang, bang, bang. Questa è la sua strategia, mi ha portato a casa sua. Ha tirato fuori l'arma, la, la. Metti qui una bella ferma. Il labiale, io non sono un cantautore, io posso farti male perché non so cantare. Ehi, ci vuole un po' di graffio, mi sembri un epitafio. Sai che fa successo solo quello che fa schifo. Schifo. E allora io ti faccio il tifo, ma tu fammi schifo. Fuliggine, questa è solo fuliggine. L'angolo della menzione. E rieccoci di nuovo in diretta per la 120esima puntata di Coxo Spaziale, con la prima puntata di dicembre, il nuovo co-conduttore occasionale mensile Massimiliano in veste W. Briarava. Allora, non sciogli lingue, eh? Sì. Massimiliano W. Briarava, menzione numero 2, sabato 5 di questo mese, cioè tra due giorni, alle ore 21. Al Laboratorio delle Arti in via Azzo Gardino, La Traviata e i Trovatori, Controcanto 2015. Di che cosa si tratta? Io lo so bene di che cosa si tratta. Diccelo allora. In occasione della giornata mondiale della lotta all'AIDS, che è stata il primo di dicembre, ma noi festeggiamo anche il 5, Comos, coro gay di Bologna, diretti dal maestro Emiliano Esposito, in collaborazione con l'AIDS, vi offrirà l'ormai tradizionale concerto di beneficenza Controcanto 2015. E per sapere quali sono gli ospiti, cosa succederà in quella serata, io voglio sentire al telefono i miei vecchi amici del Comos. Adesso è un po' di tempo che non frequento, dunque non so chi mi risponderà dall'altra parte della cornetta, però noi abbiamo fatto questo numero e vediamo chi ci risponde. Comos, sei in linea? E chi c'è? C'è sta Veronica tua, amica, telespettatrice. Ecco. Teleradio ascoltatrice. Ciao Veronica, sono Fedra di Coxo Spaziale, è bellissimo averti qui con noi. Cosa... Ma che bel nome, amica. Hai capito? Ma che cornetti che è arrivata la crema qui, su. Ma e quindi la signora Veronica... Ma non so, sembra che... Io sapevo che fosse un coro maschile, io non so adesso se hanno anche accolto no, una di nome. Sì, certo, certo, sono tutti gaiò questi, non è... che si salva qualcuno, solamente che c'era Nicola che stava di là a fare tutti quei gargarismi, quei, come li chiamate voi, i vocalizzi, un giardin de rose, un giardin de rose, ma un po' di viole, no? Un po' di santeni, non lo so, mamma mia. Vabbè. Insomma, mi ha detto rispondere al telefono quando ti chiamano perché c'è da parlare del concerto, e eccola Veronica. Ma Veronica, ma che ne sai tu del concerto? Ma passami Nicola, ma dai, cioè vuoi parlare proprio tu? Sai di cosa stiamo parlando? Sei la Traviata o sei il Trovatore tu? Ah, io di Traviata, guarda, te ne posso portare quante ne vuoi, che ne conosca centinaia, però vabbè, te lo vado a chiamare Nicola, va bene, un attimo solo che... Ok, che vammi, che sta a trovami, fare. Trovami il Trovatore, per favore, che la Traviata l'abbiamo già sentita. Un attimo solo, ciao amica. Dov'è? Dov'è? Nicola! Dov'è? Nicola! Nicola che niente proprio di... si stava allenando per davvero. Non so, buonasera. Eccolo, ma Nicola... Direttore artistico del coro Comos, giusto? Eccolo. Con la K. Da domani su www.coxospaziale.blogspot.com per i link di tutte le loro attività, i siti e anche per questo concerto di sabato. Esattamente. Che succede? Che succede sabato? Il controcanto numero 6, 7, è un po' di anni che fate questo controcanto. Oddio, controcanto sarà, questo è il numero 4, può darsi, però vabbè, comunque la tradizione del concerto del primo dicembre è lunga e viene da ancora anni prima. Però ecco, che succederà? Ci sarà questa serata con cui in collaborazione con Comus, insomma, ospiti e guest star della serata ci saranno anche il soprano Scilla Cristiano, il tenore Alessandro Goldoni, tutti accompagnati dal nostro ex maestro Lorenzo Orlandi. E, una serata che vedrà appunto un percorso, diciamo, verdiano, che passando dalle tre opere popolari di Verdi faranno questa serata di piacevole musica in compagnia, insomma, di tutti questi artisti. È una bella sfida, Verdi, per un giovane coro, giovane con una certa esperienza, ma Verdi è Verdi, Come ma noi abbiamo Emiliano Esposito, esatto. Il grandissimo direttore che ci sta formando in una maniera spettacolare proprio. Senti un po', ma io so, avendo fatto parte del coro e magari ogni tanto venendo di nuovo a curiosare lì, insomma, siete sempre in il vostro organico com'è? Ci sono audizioni, è aperto? Dove provate? Le audizioni sono sempre aperte, tutti ci possono trovare tutti i lunedì sera alla chiesa evangelica di via Veneziani in centro a Bologna. Tutti i ragazzi di sesso maschile, come dicevamo anche prima appunto, sono i benvenuti per farci sentire la loro voce, per far parte del nostro coro e cantare tutti insieme. E dunque verremo a trovarvi sabato 5 al Laboratorio delle Arti, all'auditorium o al teatro? All'auditorium in via Azzogardino, del Laboratorio delle Arti, La Traviata e i Trovatori Controcanto 2015 con il Comos. Benissimo, vi aspettiamo numerosi. Grazie mille. Tutte le offerte saranno devolute da Lights, questo è l'importante. Offerta libera. E da domani sul blog di Coxo Spaziale tutti i riferimenti e i link per andare a ispezionare meglio questo evento. E intanto salutiamo Nicola, che ci saluta anche la signora Veronica. La signora Veronica. E, certo, buonasera amiche, buonasera. E per rimanere sul tema, ascoltiamoci un po' il Trovatore. Ascoltiamoci Le Fosche Notturne Spoglie. Thank you. l'angolo della menzione. Vai Max. Allora, da oggi a sabato 5, The Real Job on Tour a Locale 2 a Bologna. TRG trasformerà Locale 2 in un luogo di raccolta, elaborazione ed esposizione di dati. Una lunga fase di brainstorming che accoglierà i contributi di quanti vorranno partecipare e porterà alla produzione di un unico documento collettivo fino al 20 dicembre. TRG rimarrà a disposizione del pubblico per permettere a ogni passante di conoscere il progetto e magari di decidere di entrare a farne parte. E abbiamo al telefono Carolina. Che ci spiega di cosa si tratta. Allora, innanzitutto è un percorso per tappe. Bologna è la seconda tappa e Carolina Gestri è la curatrice della seconda tappa. Adesso dici tutto tu. Ciao, benvenuta Carolina. Ciao, grazie mille per l'invito, anzi per ospitarci lì anche in radio, oltre qui a Bologna, al Locale 2. The Real Job è una piattaforma che è stata lanciata il 15 agosto di quest'anno, quindi 2015, e che è nata come una mappatura rivolta ad artisti e a curatori per registrare quali sono i secondi lavori che artisti e curatori fanno per mantenersi e per mantenere la propria ricerca artistica e curatoriale. Ah, interessante. Ma lo vedi che la resistenza è sempre qua, vedi? Perché scusami, Carolina, avevamo deciso così, prego, un prego, po' improvvisando, che sarebbe stato la resistenza il tema della nostra puntata. E si tratta di questo, mi sembra, anche nel vostro caso. Perché quanti lavori deve fare un artista per riuscire a resistere a fare l'artista? Esatto, sì, è una resistenza in quel senso. Anche da questa mappatura è venuto fuori anche qual è il tempo che veramente riusciamo a dedicare a questa prima attività, che dovrebbe essere appunto quella di fare l'artista o il curatore, se poi alla fine siamo in qualche maniera costretti a fare anche dei secondi lavori. Eh beh, e c'è da dire che qui a Bologna ne avrete da di contributi da raccogliere, insomma, perché mi sa che più o meno tre quarti della città se la passa così. Sì, sì, già oggi abbiamo iniziato e, come appunto avete letto prima dal comunicato stampa, stiamo completando, diciamo, un foglio bianco che è allestito su un'intera parete di Locale 2. Siamo già a un quarto del foglio, quindi insomma dobbiamo cercare di essere sintetici perché dobbiamo arrivare fino a sabato e sono già passate diverse personalità. Ma Carolina, spiegaci un po' come funziona, dai. Allora, funziona che fino a sabato noi appunto abbiamo specificato questi tre giorni perché saremo presenti sia io che le due artiste, appunto Lia Cecchin e Isamit Morales, che sono le direttrici del progetto. Saremo lì nello spazio pronte per raccontare il progetto e anche i progetti che sono già entrati in questo network che si sta sviluppando online, seguito sempre appunto da The Real Job. E oltre alla presentazione del progetto e di questi progetti che sono già entrati a far parte del network, cerchiamo anche di capire quali sono le esperienze, punti di vista di persone che gravitano sempre nel sistema dell'arte contemporanea, però in maniera più specifica qui a Bologna, in modo tale che questo documento, appunto il foglio di cui vi parlavo prima, sia un po' la registrazione delle varie esperienze, dei punti di vista delle persone che sono a Bologna, quindi registrare un po' un caso studio bolognese. Ecco. Quindi dicevamo Bologna la seconda tappa, la prima e la terza? Allora, la prima è stata a Torino in occasione di Artissima, in questa galleria che si chiama Van Der, è stata presentata quindi in occasione di Artissima a novembre. La prossima è in via di definizione. Ok, e quindi ancora non tipo ogni mese e mezzo vi ritroviamo in giro per le città. Per l'Italia, sì, esatto. Ottimo, ottima cosa. E la prossima volta che magari ritornate da queste parti, perché cerchiamo di creare un appuntamento, che magari venite a trovarci in studio e ci raccontate di quello che avete raccolto. Sì. E allora potremmo organizzarci. Metto anche i piatti, anche per dire che sì, The Real Job passerà anche per il Coxo. Perfetto, sì, saremo molto felici di venire. Allora, ti ringrazio Carolina, anche perché sei stata super sintetica e ne abbiamo un sacco bisogno. Bene. Perché qua siamo allora, agli sgocciolissimi. Buon real job, buon bene, lavoro. Bene, rientro dentro che la discussione sta continuando ad andare avanti. Perfetto, verremo a farne parte tra oggi a sabato. Bene, e poi il frutto resterà visibile installato a locale 2 fino al 20. Sì, stasera rimarremo dentro locale 2 fino alle 22, domani riniziamo dalle 15 fino alle 22 e sabato invece dalle 11 alle 15 in via Gardino, vi aspettiamo. Perfetto, grazie mille, ciao. Grazie mille, buona serata a tutti. Ciao ciao. Ciao. Cosa facciamo? Ci andiamo anche noi stasera dopo il coxo. Ma certamente. Però adesso c'era un'altra cosa che dovevi dire. Io una cosa sugli alberi, ci porta anche all'ultimo brano che ci saluta. Guarda, sono già le 8. Mi piace tantissimo finire la mia prima co-conduzione con questa menzione. Ho fatto anche la rima. Meraviglioso, il più W di tutti. Capito? Bartolomeus Traubeck è un musicista che suona uno strumento particolare, suona gli alberi. Cioè, già li ammazziamo per fare le immobili, non, le case, non, la carta, adesso anche la musica. Per favore. Mi taccio. Per fare l'albero ci vuole... No, per fare un tavolo ci vuole il legno, ok? Mi ha sempre affascinato la rappresentazione visiva del tempo che passa. Gli anelli degli alberi sono una perfetta immagine. Un anno, un anello. Allora, come si fa a trasformare in musica gli anelli di accrescimento di un albero? Lo volete sapere? Basta andare il 5 di dicembre alle 18:45 in questo meraviglioso spazio che si chiama Opificio Golinelli a Bologna. Dov'è? In via Paolo Nanni Costa 14, praticamente dietro l'ospedale maggiore. E Bartolomeo Straubeck sarà lì a suonare per voi gli alberi. Ma dai. Sì. Ma allora aspetta che mi sto sconfondendo con i mouse, ma ci va questo. Ci va? Che cavoli. Capito? E dunque, prima di andare a vedere i Traviati e i Trovatori del Comos alle 21, alle 18 potete andare in questo spazio fantastico che è l'Opificio Golinelli, uno spazio di cultura e di ricerca, dove potete sentire come suonano gli alberi. Ma mi ci porti, Max? Beh, per il momento potrei anche farti sentire un esempio di come suonano gli alberi. Abbiamo un suono di albero? Esattamente, lui senza la puntina del giradischi vinili, ma con l'aiuto di una microcamera, di un software, traduce le venature in suoni di pianoforte. Anvedi Bartolomeus. Io direi che per concludere in gloria questa meravigliosa prima puntata di co-conduzione coxica, io vorrei ascoltare il suono di un albero millenario. Se si chiama The Voice, io te lo faccio ascoltare. È proprio The Voice of the Tree. E ti saluto tanto caramente fino alla prossima settimana. Ciao Fedra. Ciao Massimiliano W. Briarava. Ciao.